Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Questo affettuoso saluto ve lo mandano Antonio Ceccato e Gesi. Buonasera, anche, Gesi. Buonasera Antonio e ben ritrovato. E riprendiamo la nostra trasmissione sperando di essere di fare sempre meglio, perché mi pare che l'anno scorso è andata bene. Quest'anno speriamo che vada meglio ancora. Tu Antonio hai qualcosa da dire ai nostri ascoltatori? Beh, io do il mio solito cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Ricordiamo anche, per chi lo desidera, la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Una raccomandazione: vorremmo avere anche un riscontro da parte dei nostri ascoltatori per eventuali innovazioni oppure delle modifiche, delle cose per rendere critiche sempre più aderente alle loro esigenze e alla nostra trasmissione. Anche delle critiche, basta che siano costruttive, è vero. Allora, quest'anno abbiamo cambiato poche cose, una cosina solo. La musica sarà monotematica, cioè ogni volta presenteremo un autore di canzoni oppure un cantante. Quindi oggi, per esempio, che presentiamo Modugno, faremo ascoltare tutte le canzoni, parte delle canzoni di Modugno, tutte, no? Perché sennò dovremmo stare qui ore e ore. Sperando che questa innovazione sia di vostro gradimento. E incominciamo subito con la prima canzone in programma, che è, e voi la ricorderete senz'altro molto molto bene, che è la Zarella. Che libro sotto braccia, camicetta a fiore blu, vuoi fare signore nell'annanza scuola pure tu? Ti piglia la sigaretta quando è accatta per papà, ti mette già un rossetto come vire fa mamma. Lazzarella, ma Lazzarella come sì, a me mi piace sempre più, e venga a posto per Toddì vicino a scuola lo Gesù. Tu invece mi rispondi già, i deveretti proprio a te, per me l'amore può aspettare, che n'ha già fa non va per me. Lazzarella, puntate primavera, quando passa tutte le mattine, già ti spiecchi in de vetrine, solo un complimento te fa vampa. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensi proprio a me, e ride per mo fa capì che perdo tempo a piezza a te. Mo vene uno studente innanzi a scuola do Gesù, te va sempre più stretta camicetta a fiore blu, te piglio quattro schiaffe tutte foto ca papà, te trovo un biglietto che ti scrive chi lulla Lazzarella. Ma Lazzarella come sì, c'è sì caduta pure tu, l'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu le dici no, una sera tu le dici ma se non va se ti vota, fai segno sì senza parlare. Lazzarella, o tempo come vola, mo te trovo tutte mattine, chi nel lacrime sto cuscina, manca una compagnella te può aiutare. Ma Lazzarella come sì, te si cagnata pure tu, e te prepara di sto sì, ma rinta chiesa ro Gesù. Lazzarella, Lazzarella mia. Eccoci di nuovo in studio e presentiamo l'ospite, il primo ospite della stagione, che è il signor Mauro Zanatto, che noi conosciamo già perché ha partecipato qualche volta alle nostre trasmissioni. Buonasera Mauro, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Come andiamo? Grazie. Mauro? Benino, dai. Tutto bene? Passata sì. Bene l'estate? Sì, abbastanza, sì. E ci hai portato qualcosa di bello stasera da leggere? Qualche poesia, visto che scrivo quelle. Ho capito. Vabbè, allora, intanto cominciamo a dire un pochino di te. Parlaci un po' di te. Ultimamente scrivo poco e faccio altro. Che cosa fai altro? Cioè? Altro, l'ortolano, finché il tempo me lo consente. E poi, diciamo, vado molto in bicicletta, visto che ho acquistato qualche chilo. E quindi cerco di fare, quest'anno sono già 3500 chilometri di bicicletta. Bravo, questo è un esempio per fine molti. Anno saranno 5000, dai. Ma le fai di mattina presto? Mattina un 20 chilometri e pomeriggio altri 20. Ma ce la fai? Sì che ce la faccio. No? È una domanda tendenziosa, evidentemente. Ce la faccio, sì. Almeno in bicicletta ce la faccio. Oh, perfetto. E questo è uno dei tuoi hobby. Sì, certamente. Ecco, poi? Poi è quello dello scrivere. Sì. E quello lo faccio a notte tarda. E quando, diciamo, sono un po' più depresso, quando arriva il novembre, dicembre, e allora lì... Le serate uggiose, tutte uggiose cose, svolgo sì. Un'attività ricreativa per me sarebbe la scrittura. Tu perché sei... la scrittura per me allontana la solitudine e anche un po' di depressione. Tu che sei un poeta, quali sono i mesi o le stagioni che ti ispirano di più a scrivere? L'inverno, sicuramente l'inverno. Perché? Perché non c'è sole, perché sono sulla mia taverna e lì sono isolato, quindi posso scrivere. Beh, senti, sentiamo così la prima poesia che magari ti piacerebbe proporre al pubblico. Beh, una prima poesia che mi piacerebbe proporre al pubblico sono ad esempio i giardini di Morfeo. No, oh, Morfeo sì. Non è Morfeo, non è il re del sonno. Del sonno, esatto. Quindi, ma cosa ha giardini anche Morfeo? Comandi? Anche Morfeo ha i suoi giardini? Sì, i giardini di Morfeo, in questo caso si tratta di capri. Ah, di capri, ho capito. Capri, non è scritto nella poesia, però è capri. È una sensazione che ho avuto proprio a Capri con mia moglie. Scendendo i gradini e tutti questi giardini pensili, andando verso il mare, ho avuto questa, diciamo, ispirazione. I giardini di Morfeo, e questo è il titolo. Allora, sentiamo. Volare, lasciarsi trasportare dalle luci e dalbe lontane, guardare nel vuoto i colori sfumare, quei crinali rosati quasi sospesi, discendere nel mare, toccare il mirto e ondeggiare lungo i giardini pensili che degradano e cozzono nell'azzurro cupo, poi tuffarsi assieme scegliendo la via più breve fra i bassi muri di sassi che delimitano gli orti di Orfeo, sperando di poter rinascere in tanta illimitata bellezza. È un tuffo nel mare. Bello, così in sostanza tu descrivi un po' le tue sensazioni che provi a Capri. A Capri, questo è Capri, sì. Ma sei stato in vacanza a Capri? Sì, molti anni fa sono stato in vacanza, questa poesia l'ho scritta molto dopo, e lì ho provato delle sensazioni meravigliose, e, non so, il ripido di Tiberio, tante cose che sono state a me impresse, e questo monte Solaro che si ergeva in mezzo all'isola e poi andava verso il mare, proprio queste rocce che cozzano col mare, che hanno veramente un celeste meraviglioso. Paesaggi inimitabili, naturalmente. Certamente, Capri è meraviglioso. Beh, senti, io adesso invece leggo Meditazione, che è un'altra tua poesia. L'ancora dell'ancora scandaglia profondi fondali, scopre il nudo essere, l'attrae alla superficie in mille bolle di ricordi. Sarà il continuo ripetere che donerà il Dio che è la tua vera essenza non velata. Quel navigare sicuro nel comune mare verso isole sconosciute dove il mistero è già scritto. Ecco, però ci siamo dimenticati di spiegarla un pochino questa poesia qua. Sì, la spiegazione... Sì, spiegala un pochino, sì. Beh, qui manca un apostrofo, l'ancora dell'ancora. Sì, qui... Cioè, quel ripetere di stare solo, di meditare, di rimanere, di cercare di entrare dentro se stessi, scandagliare il proprio inconscio, andare a nudo del tuo essere e sentire veramente la tua vera essenza, il Dio che c'è dentro di noi, che è una bellezza enorme. Purtroppo questo Dio non è molto rivelato in noi, perché commettiamo degli errori, specialmente tutt'oggi, che sono molto, molto forti. Eppure bisognerebbe navigare dentro di sé, e che in questo porto sicuro, perché è un porto sicuro, in un mare che è comune. Adesso non stiamo prendendo Yang, l'inconscio collettivo, comunque è un comune inconscio che abbiamo tutti, verso isole che a noi all'apparenza adesso sono sconosciute, ma poi questo mistero di Dio è già stato scritto e ce l'abbiamo noi dentro. Però non lo conosciamo. E che non conosciamo ancora, perché non conosciamo bene noi stessi. Questo è il problema. Sarebbe, diciamo, una questione filosofica. Sì, sarebbe un discorso. Beh, io di filosofia non ne so niente. Diciamo, ho letto sì qualche cosa di Bonhoeffer e via dicendo, però non ho mai approfondito la filosofia, né altre cose, né teologia. E diciamo che sono abituato a pensare e quindi cercare anche dentro di me qualcosa che all'apparenza non appare. Tutto qui. Adesso è come in tutti noi, d'altronde. Sì, sì, beh, certo. Adesso io ne leggo una, dopo magari anche Antonio ne legge. Una che mi piace, l'ho trovata particolare. Mano. A mano. Un certo. Dito per indicare la strada. Un dito per discriminare una vita. Una mano per assolvere. Una mano per distruggere. Sì, è facile indicare una persona col dito indice e dire tu hai, tu fai, tu sei. E quando, non lo so chi l'ha detto, non lo so se sia stato Gesù Cristo stesso, quando gli altri quattro diti sono rivolti verso te stesso. Cioè, indaga anche in te il peccato, non indicarlo solo. Un paradigma del chi scagli la prima pietra, chi è senza peccato. Sì. Ecco, questo, quindi una mano può significare tante cose, può indicare una strada, un dito può discriminare una vita, una mano può anche assolvere, il prete assolve, e non solo i preti, non solo il Papa, anche la madre e il padre ti danno la benedizione a loro modo. una mano può anche distruggere. Guarda l'ultimo evento di quella ragazza di 31 anni che per dei film su internet è stata distrutta, è stata messa alla merce di tutti e lei si è autodistrutta. Quindi sono 20, però fanno un po' pensare. Sì, questo. Sì, appunto. Bene, allora ci ascoltiamo la seconda canzone, Antonio. La lontananza. Ecco. Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi. La lontananza, sai, è come il vento che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno, è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare. E invece sono qui ricordare te. Niente del tuo bene ed ho gettato via inutilmente l'unica cosa vera della mia vita, l'amore tuo per me. Ciao amore, ciao, non piangere. Vedrai, ritornerò, te lo prometto, ritornerò, te lo giuro amore, ritornerò, perché ti amo, ti amo, ritornerò, ciao amore, ciao. Ed eccoci di nuovo in studio, ricordandovi che quest'anno, questa stagione che si va ad iniziare, le canzoni avranno un carattere monotematico, quindi stiamo parlando di questa volta di Domenico Modugno. E qui lasciamo un attimo al nostro amico Mauro, diciamo, sì, la continuazione di questo racconto, di questa narrazione poetica, eccetera. Ma volevo anche ricordare che siamo in onda su Blu Radio Veneto e che abbiamo come ospite oggi il signor Mauro Zanatto. Esatto. Ecco, una poesia per me è una, penso, delle migliori che ho fatto. Io rivivo nella tua voce assonnata, nel tepore dell'amore concluso, nelle note malinconiche dei notturni di Chopin. Muoio e rinasco nella goccia di pioggia, nei tuoi scarmigliati capelli, nel preludio degli albori, nell'inverno pigro. Scoperto negli affetti cammino con te, in te contenuto, nella rotondità del tuo ventre, come figlio ed attendo. Questa è l'attesa di un bambino. Ah, è l'attesa di un bambino. Sì, in questo caso mio figlio, che attende che la mamma lo partorisca, insomma. Ho capito. Ecco, comunque ha una vita, comunque anche dentro il ventre, e sente tutti gli umori esterni, li percepisce e li acuisce attraverso questo liquido amniotico. Questa è una vibrazione che il figlio che sente continuamente. Sì, sì. Insomma. Ho capito. E c'è quasi come ad allegarsi a questa poesia, quando il figlio diventa più maturo e vorrebbe allo stesso tempo allontanarsi dalla mamma, perché ormai è il suo carattere. Un distacco inevitabile. Distacco inevitabile, diciamo. E sarebbe cordone ombelicale. Sì, cioè staccare dicono staccare il cosiddetto cordone ombelicale. Esattamente. Sì, sì. Esattamente. Quindi mi collego al discorso di prima e leggo cordone ombelicale. Cordone ombelicale. Svelta madre, recidi questo cordone che mi avvinghia. Come posso cercare via d'uscita di fronte a questa porta troppo aperta, pronta ad ospitarmi ancora? Io cerco nuove fessure, anfratti misteriosi, salutari bagni di rugiada che non sappiano di me e di te e non abbiano il nostro stesso odore. Quindi c'è una ripugnanza alle volte, quando il figlio è adolescente, di sentire anche magari questo odore materno, quando lui lo sentiva così forte da bambino, adesso che si è creato il suo essere, la sua vita, il suo carattere, adesso cerca di allontanarsi, quindi quasi come a ripudiare questo amore un po' troppo soffocante, e cerca naturalmente un altro amore. Sì, forse si avvicinerà alla mamma in maniera diversa, ecco, diciamo. E certamente sì, in maniera diversa si avvicinerà a lei. Sì, perché... Però la mamma è difficile che abbandoni il pensiero del figlio bambino. Perché per noi i figli sono sempre bambini. Esatto. Anche se hanno 50 anni, per modo di dire. Però... no, tu parlavi di odore, adesso non ricordo che frase. Sì, parlavo di odore, cioè il profumo della madre. Ecco, il profumo della mamma. Profumo della mamma, io ho messo in modo più volgare, ho messo odore. Odore perché parlavo del ragazzo. Il ragazzo non lo percepisce più come un profumo materno, ma come un odore. Un odore che alle volte, visto che la madre tende a avvinghiarlo a se stesso, a ritrarre questo cordone ombelicale, e allora lo sente non più come profumo ma come odore. C'è una mia visione, sai? Sì, sì, sì, sì, può essere anche visione. Questo. Perché li vedi che scalpitano per cercare una vita, e anche le più piccoli ritardi che gli diamo per loro pesano. Lo so, noi genitori è importante averli, però dai, hanno le ali, lasciali volare. D'altra parte, certo, d'altra parte, così io cerco di andare a ritroso nella mia passata giovinezza. Noi non è che il figlio voglia ritrarsi dai genitori, ha bisogno di uno spazio, siccome come a volte, non so, si apre la finestra perché si ha bisogno di aria, e così penso che l'adolescente ha bisogno di evadere, di aria, di sentirsi, ecco, diciamo, di sentirsi qualcuno. Ecco, è quello che volevo dire. Di sentirsi qua, vero Antonio? Sì, sì, certamente è una questione di identità, evidentemente, e di, come posso dire, di passaggio, di trasformazione, un po' come il bruco quando si trasforma in farfalla. Esattamente. Non è un cambiamento, è una trasformazione. E allora si passa dalla bava, diciamo, dallo strisciare, eccetera, alla libertà del volo. Questo è fondamentale. Certo. Quindi i figli quando cominciano ad avere una certa età cominciano a scalpitare, perché hanno bisogno della loro identità. Certamente. Perché molto spesso, non so, forse l'avrò fatto, i genitori soffocano un po', magari inconsciamente, senza volere, inconsciano, sì. Consciamente, certo. Consciamente, sì, soffocano un po' i figli, invece il figlio è come una rondine, ha bisogno di volare, di cercare i loro spazi, il loro sole, la loro aria. Ed è quello che volevo dire. Certo. Anche se non sono una poetessa. Ma ti esprimi molto bene. Beh, insomma, sarà perché io amo molto la natura e quindi molto spesso sento il bisogno di, anche adesso, di vorrei librarmi nell'aria, vorrei, e invece tutto sta in città, in mezzo ai muri, in mezzo al cemento. Sei una farfalla come la Renata. È una bella cosa. Sì. Con la prossima poesia? Tu leggi, Antonio. Leggi tu qualche poesia di Mauro? Benissimo, adesso vediamo la prossima, quale l'autore sceglie perché io la legga. Sono intrusioni, diciamo, in un campo che non è il proprio, quello del lettore, fa una certa violenza, violenza se vogliamo. Tristezza. Se mai le tue mani potessero toccarmi, io ti avrei come una rosa alle sue spine. Nella leggerezza del tuo avanzare ti seguirei per condurmi oltre il più vano piacere, per poi lasciarti in una panchina del metrò, avvolta nel cappotto con un fazzoletto in mano, e rivederti dopo aver preso il giornale in una grigia voluta di fumo, come il cielo si ricopre delle sue nuvole all'improvviso, perderti nella folla dietro le spalle di uno stanco pendolare, di ritorno a casa, a raccontare una storia banale, osservarti più in là mentre ti volti con un sorriso ironico per dirmi ciao, a domani. Sì, sarebbe bene spiegarla questa poesia un po'. Sì, è una parodia, insomma, prendo questa tristezza come una donna che tieni con te e da questa voglia di amarti un po' troppo, e però poi la lasci stare. Ma no, scusami. Allora, è difficile da spiegare, nel senso, questa è perché dovrei andare un po' sul volgare. Questa tristezza che tu hai perché non puoi forse amare questa persona come tu vorresti. Ecco, questa è una spiegazione, diciamo, sì, che può essere, sì. Che si può attagliare benissimo a quello che era stato detto. Ecco, è proprio come qualcosa che vorresti amare, però non la puoi amare profondamente. Sì. E la lasci così, di soppiato, la lasci seduta su questo metrò, su questa panchina,

they do but sweetly chide thee, who confounds in singleness the parts that thou shouldst bear. Mark how one string, sweet husband to another, strikes each in each by mutual ordering, resembling sire and child and happy mother, who all in one pleasing note do sing, whose speechless song, being many, seeming one, sing this to thee, thou single wilt prove none. Tu che sei sol musica, perché l'ascolti con disdegno? Dolcezza ama dolcezza, e gioia di gioia si diletta. Perché vuoi ascoltare qualcosa che ti annoia, o forse hai piacere nell'essere annoiato? Se l'armonioso suono di note ben accordate in un perfetto assieme offendono il tuo orecchio, e se t'accusano solo gentilmente, perché confondi in singola armonia quanto scindere dovresti. Guarda come ogni corda dolcemente unita all'altra vibra ognuna su ognuna in ordine reciproco, sembrando padre e figlio o felice madre, che tutti insieme cantano la stessa dolce nota. Queste mute voci riunite in un sol coro all'unisono ti dicono: solo non sarai nessuno. Che bello. E il bardo colpisce sempre, che naturalmente, bello. Straordinario. Bello, vero? Ed ecco, lasciamo qui al nostro amico Mauro il compito di procedere con le sue poesie, le sue considerazioni. Cosa ci leggerai adesso, Mauro? Virgola. Virgola? Vabbè. È una poesia d'amore. Ah, bene. L'amore è una virgola a fine pagina, un discorso sospeso, mai approfondito. Il respiro del fiume, l'aria che ti circonda, desiderio indomito, il ricominciare senza fine, adesso, dopo, sempre, virgola. Ah. Comunque virgola perché... Sì, perché, non perché dovrebbe continuare, sì. Dovrebbe sempre continuare. Quindi anche la poesia non è finita, perché l'amore non deve essere finito. Mai. No, mai, esattamente. Questa è una never ending story. Come quindi quella virgola ci sta. Certo. E invece non è sempre così. Leggi tu una, Antonio. Benissimo, adesso lasciamo all'autore la scelta della prossima poesia, che naturalmente nella quale cercherò di addentrarmi con partecipazione. Ecco, io leggerò poi Maschere. È sempre abbastanza Maschere. Complicato naturalmente captare i sentimenti altrui. Certo, però lo anche questo volentieri. Un po' non è complicato, però parla di un bambino, di due bambini che sono soli nel collegio, Monte Conero. Monte Conero sarebbe quel monte che sovrasta Ancona, sull'Anca, Ancona, e noi due a Loreto, circa 25 chilometri più a sud, eravamo su un collegio di orfani di finanza, e qui vivevamo la nostra vita, e specialmente nelle ore notturne passavamo delicatamente il nostro giorno, le nostre confezioni. Monte Conero. C'era il sole ad accarezzare le pareti d'indaco, dove il spumoso salnitro trascrive le parole del mare. Vie scoscese verso la spiaggia. I gabbiani volano raccolti come un foulard dal vento. Zigzagavano irrequieti alla ricerca del cielo, soffermandosi esausti sulle barche ormeggiate lungo il porto. Poi il silenzio, interrotto dalle onde a schiaffeggiare gli scogli, solo ed immenso respiro sospeso fra le tamerici ed il vorticare della sabbia. c'era un promontorio in lontananza, adagiato sul mare, una spada, una mezzaluna sommersa a dividere il mondo, i miei pensieri a sorvolare le ripide pareti. Con un colpo d'ala volavano verso il Po, verso casa, alla ricerca di un ritorno. Un lenzuolo bianco a coprire il mio volto, un letto per poter dormire e sognare. C'erano i nostri occhi, Alessandro, e trascritte nelle giovani iridi le uniche parole mai dette, forse per vergogna, forse per pudore. Quelle uniche parole mai dette erano mamma. Ah. Sì. Non venivano dette. Molto bella, no, molto bella. La mamma era lontana, quindi mamma. Cioè, però, sai, i maschietti... Un certo pudore. Un certo pudore a rientrare in questa sfera, e anche perché era troppo lontana, quindi la mamma non si pronunciava. Eh sì. Beh, io leggo Maschera. Sì. Non mentire te stesso. Lasciati andare nel tempo. Accarezzati nel tuo nido. Donati a piene mani. Scopriti dal fango terreno. Accetta ricchezza che trattieni. Perché sei solo, unico, insostituibile essere nell'universo. Ecco, ci spieghi un po' questa qui. Sì, cioè, nel senso che talvolta ci mascheriamo talmente tanto che non riusciamo a capire noi stessi. E noi siamo importanti. E noi siamo importanti oltre a ciò che ci richiede la società, ciò che richiedono tutti nel lavoro, nell'obbligo e quant'altro. Noi siamo importanti perché siamo esseri umani, perché siamo esseri con un certo spirito e siamo unici. Abbiamo ognuno un nostro DNA, ognuno una nostra impronta indelebile sia fisicamente che anche spiritualmente. È vero, noi siamo unici ed irripetibili. Questa è una frase che quando ero ancora bambina, ragazzina, mi è stata detta così in un discorso che mi è rimasta impressa. Chissà perché, non, ancora oggi non mi spiego il perché. Però noi siamo unici ed irripetibili. Non, un altro Antonio non c'è, un altro Mauro. E neanche un altro Mauro. Un altro Mauro non c'è. Se non memoria sarebbe veramente tanta strada. Anche se dicono che ognuno di noi Sdrammatizziamo. Anche se dicono che ognuno di noi ha un sosia del mondo. Beh, può essere. Sì. Ma anche le piccole impronte digitali saranno diverse. Certo, comunque. Certo. Sì. Cosa ascoltiamo noi adesso? Ascoltiamo Antonio? Adesso Meraviglioso, sempre un'altra bella, splendida canzone bellissima di Modugno. È vero, credetemi accaduto, di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo, vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso. Sentivo ancora sapore della vita, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite che è il signor Mauro Zanatto, il quale ha scritto anche, oltre a poesie, ha scritto anche dei romanzi, vero? Certo, sì. E l'orologio cronometro. Ecco, l'orologio cronometro, sì. E il fiume Storga, Tessa risorgiva a sinistra. Ecco. Sì, e adesso sto scrivendo un libro di racconti che sarebbe intitolato Il macaco di paese. Ti puoi immaginare come sarà? Un po' comico. Sì. Ma tu non volevi scrivere delle favole, delle fiabe? Sì, certo, ne scrivo, però non le ho ancora edite. Beh, preparale però, per la prossima volta. Alcuna. Va bene, dai. Io leggo la tua poesia intitolata Pioggia. L'amore è una goccia. Penetra la terra e disseta, dona senza chiedere, sorride del tuo rinvigorire ed è in te, con te, pianta. Ce la spieghi? Beh, non c'è nulla da spiegare, nel senso che l'amore è cos'è, una pianta? Ad esempio l'amore di una donna è in te, è con te, diventa con te te stesso e tu sei lei. È un connubio fra due persone che, come la pioggia, diventa un connubio con la pianta e la pianta diventa un connubio con la pioggia. Tutto qui. Ho capito, cioè un connubio tra... fra un donare, e un ricevere. Ricevere. Do adesso. Sì, penso che non sia sempre così, vabbè, comunque... Non è sempre così, no, però no, dovrebbe essere non così. Non è sempre così, comunque. Si dona, ma tante senza volte... Senza nulla chiedere. Sì, ma tante, esatto. Ma tante volte... tu doni, ma non ricevi doni. È certo, vero? Questa è una brutta cosa. Ma eppure qualche volta succede anche questo e bisogna accettarlo. Perché, vabbè, vuoi leggerne una tu? Certo, io se vuoi leggo Porta. Una porta, insomma. Una porta. Non barrare la porta. socchiudi appena. Nulla è definitivo nel dire basta. Potresti desiderare di ritornare e ripercorrere il cammino interrotto. Il passato ci lega. Il velo d'allora darà adesso la forza per avanzare. C'è una luce nello spiraglio da noi non notata, tralasciata, per l'impulso di fuggire. Quando ecco, si vuole chiudere sì, un rapporto con qualcosa, con qualcuno che ci ha molto, molto preso, e c'è voglia anche di fuggire alle volte. Però non tutto ciò che è stato fatto è da buttare. C'è sempre quella luce, quel spiraglio che noi non abbiamo notato nell'amore e in tante altre cose, e che purtroppo non lo notiamo spesso, insomma. Quindi c'è sempre una speranza. Magari lo noti dopo. No, lo noti dopo. Appunto. Un rimpianto. Sì, appunto. Un rimpianto quando tutto è finito. Lasciamo a Gesi, diciamo, l'ultimo frammento di questa poesia della nostra trasmissione con Mauro. Allora, l'ultima poesia che andiamo a leggere è dedicata a un'amica di Mauro, Renata, un'amica nostra, insomma, ecco. È vero che anche lei è poetessa. Una grande poetessa, sì. Renata Alberti. Che scrive oltre delle belle favole per bambini. L'ultima favola, Nonno Vento racconta. Scusa, sì. È bellissimo, io lo paragonerei quasi al Piccolo Principe. È breve, però è immediato, è qualcosa di eccezionale. Il racconto per bambini, ma anche per adulti. Meraviglioso. Bene, allora, leggiamo la poesia Renata. Frizzante fiume che straripa dall'alveo dell'anima, monda e inonda, pigra terra di generoso limo. Diciamo che a chi si riferisce questa poesia? A lei naturalmente, perché la Renata è proprio frizzante, come lo sai te. Ha talmente tanto amore che lo straripa dall'alveo di questo fiume. Monda in onda, pigra terra, in questo caso pigro sarei anch'io o tanti altri, di generoso limo, quindi dona parecchio, altruista. È una donna che dà tutto se stessa, bene, per gli altri. Bene, bene. Naturalmente andiamo con l'ultimo brano in programma, che è Nel blu dipinto di blu, meglio conosciuto come Volare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel dipinto di blu, felice di stare lassù,